You set me free, but will I cry? No, no, no, no. She don't love me. No, no, no, no. She don't love me. No, no, no, no. She don't want me. No, no, no, no. She don't care, but will I cry? No, no, no, no. You see, I'm in misery, but will I cry? No, no, no, no. She don't love me. No, no, no, no. She don't love me. No, no, no, no. She don't want me. No, no, no, no. She don't care, but will I cry? No, no, no. Bentornati anche questa settimana ad una nuova puntata di Rock Legends. Al microfono, come sempre, il vostro Jean-Luc. Ritornano gli ospiti in studio. Abbiamo con noi direttamente dal Friuli una band che, come al solito, ci presenterà la disco. A voi le presentazioni, ragazzi. Ciao a tutti, siamo gli Oracles di Pordenone e vi presentiamo il nostro primo disco, il nostro debutto, dal titolo Have a Nice Trip, uscito per Nexus febbraio del 2011. I Gnu di Oracles, una prima parte dedicata alle beat inglese degli anni 60, iniziando dai Sorrows, formazione di Coventry, che dal disco Take Heart del 1965 ci ha fatto ascoltare la canzone No No No No. Famosi soprattutto in Italia, a quell'epoca, e debitori di un sound energico originale, che ne pensate? Beh, oggettivamente è uno di quegli stili, uno di quello uno spunto che fondamentalmente ci appartiene. Apprezziamo molto quella tipologia di musica e da quel tipo, insomma, quel decennio in là proviene quello che è il nostro suono, insomma. Gli Oracles sono assieme dal 2009. Come vi siete formati e perché avete scelto questo nome? Il nome, perché abbiamo scelto questo nome? Perché io guardavo la Coppa America. Stavo guardando la televisione. Perché io guardavo la Coppa America e simpatizzavo per BMW Oracle. Ho aggiunto una S e alle hop è venuto fuori il nome. Niente di più, niente di meno, non c'è nulla di trascendentale come qualcuno dai, può credere. No, qualcuno ci fa delle domande, ci chiede: ah, ma questo nome un po' particolare, significato ricercato, magari. E noi ce ne inventiamo uno ogni volta, oggi però siamo sinceri. Questa è quella reale, mi ha chiamato dopo 30 secondi. Sì, ho detto, ho il nome della band. Andiamo avanti con gli Yardbirds. Nel 1965 entra alla chitarra Jeff Beck e la band comincia a muoversi verso un sound influenzato dalla loro passione blues. Dalle BBC Session di quell'anno, il brano Ain't Done Wrong. Call that train and gone. L'ingresso di Jeff Beck nella band portò a quella imprevedibilità che mancava al gruppo, che ne dite? Diciamo che loro avevano familiarità, no? Con dei chitarristi, insomma, diciamo, definiamoli capaci, no? Tra Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page. Però lui fu il fautore della sperimentazione, no? Nella band, anche se poi durò poco, purtroppo. Grande band, grande Jeff Beck, anche se preferisco Jimmy Page. Eh beh. Vostre esibizioni come sono andate? Qual è le più importanti in termini di esperienza e le impressioni che avete raccolto dal pubblico a fine live? Definiamo in Italia o all'estero? Sì, Italia all'estero, va bene. Ok, beh, così vediamo anche la differenza. È la differenza sostanziale, è tanta, è tanta. Beh, è tanta. Dai, all'estero abbiamo suonato a Londra non più di un mese e mezzo fa, è andata parecchio bene. Benissimo. Entrano nella nostra stessa lunghezza d'onda, anche perché andiamo a casa loro suonando quello che hanno creato loro, no? E quindi, esatto, per noi è molto più semplice. Lo stesso discorso a Parigi, suoneremo fra un mese, siamo un po' in tour. In Italia, diciamo, dipende, no? Dipende dall'ambientazione, dipende da chi hai di fronte, non c'è un target ben predefinito. È difficile perché in Italia ci siamo disabituati a questo suono, ci siamo disabituati a questa tipologia di band, a questa musica, prediligiamo un suono più plasticoso, se me lo concedi. E, certo, e soprattutto chi scrive, chi ascolta, non essendo più abituato a questo suono, lo ritiene addirittura un genere un po' particolare. Io non capisco cosa ci sia di particolare nel rock and roll. Infatti. Sono 40 anni che ne ascoltiamo questa musica e l'ascolteremo sempre. Ci sono molti sottogruppi come indie, eccetera, eccetera, che durano 10-15 anni, poi hanno finito. Il rock and roll vive dal 60 ad oggi, siamo ancora qui. Qua in Italia mia nonna mi ha detto che non sono un bravo ragazzo perché sono rock and roll. No, ecco, la differenza. Molto male. Si è sentito, questa è la differenza. Ha sentito un giorno le prove e mi ha detto: oh, ma che musica è là? No, la differenza sostanziale qual è? Che se in Italia qualcuno si colora i capelli è simile a uno dei Dari, invece se lo fai fuori sembri David Bowie. E con questo ho detto tutto. Questa è la grande differenza. Concludiamo purtroppo questa prima parte con gli Easy Beats, australiani affermatisi in Gran Bretagna nel 1966. Nel 1968 pubblicano il loro sesto disco intitolato Falling Off the Edge of the World, dove il loro suono diventa ancora più rock dei precedenti. Uno dei classici di questo disco è sicuramente Good Times. A fra poco per la seconda parte.